Conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato mattina, un sabato 24 gennaio, 10:08 minuti 35 secondi, qui c'è la compagnia I Compari dei Conti della Belva che per due ore chiedono il vostro intervento, sperano di farvi urticare un pochino e innanzitutto vi salutano Carlo Alberto Carnevale Baffè, Mario Seminerio e Oscar Giannino. Allora innanzitutto telefonateci 800 24 0024 349 238 6666 per gli sms e un po' di tweet anche chiocciola Conti della Belva. Conti della Belva, visto che siamo tutti qui noi tre abbastanza attivi nel prenderla e nel darla, ovviamente si parla di argomenti. Allora, gli argomenti per far venire l'idea se telefonare, di cui parliamo oggi in questa puntata, c'è un'atmosfera che si diffonde, sì. Come ovvio. Allora, gli argomenti di cui parliamo in questa puntata per fare un intervento sono innanzitutto le pensioni. Le pensioni perché? Perché per tutta una serie di ragioni, ma innanzitutto ricapitoliamo: la Corte Costituzionale ha detto no al referendum che voleva fare la Lega, aveva raccolto le firme per abbattere la riforma delle pensioni Fornero, e quindi ne parleremo con chi il referendum lo voleva e poi ne parleremo anche con chi diceva invece e continuerà a dire no, perché la riforma delle pensioni tutto sommato è l'unica cosa con la quale abbiamo frenato l'avanzamento del deficit italiano. Però soprattutto tentiamo di ricordare a voi se potete essere sicuri delle vostre pensioni, perché i numeri dell'INPS, visto che il governo comunque ha annunciato che smonterà la riforma, Poletti l'ha detto due giorni fa, allora sui numeri dell'INPS interroghiamoci, voi diteci se vi sentite sicuri. Vi ricordo che il governo vi ha fatto una bella tassazioncina retroattiva del risparmio previdenziale aggiuntivo. Esatto. Quindi questo è il quadro, primo blocco, andiamo avanti, mezz'ora su questo, intervenite su pensioni sì, pensioni no, vi sentite sicuri? Avreste voluto il referendum. Dopodiché uno sguardino al fatto che nel silenzio generale però le previsioni per l'Italia continuano a scendere, non a salire, a scendere. Quindi vedremo il come e il perché, se siamo tutti gufi oppure se invece ci sono degli elementi con cui continuare a preoccuparsi. Dopodiché un'altra mezz'ora dalle 11 in avanti in cui tra Draghi e la BCE, che giudizio averne, cosa potrà avvenirne, se ha ragione chi dice che è troppo, se ha ragione chi dice che è poco, soprattutto a proposito di banche, nel frattempo un decreto per legge per le 10 maggiori banche popolari, eccolo lì. Pronto, una bella blocco di mezz'ora per capire BCE, banche popolari. Dopodiché ci occupiamo anche di un po' di novità di questa settimana, visto che in una settimana sono fiorite un bel po' di cose. È rinata la GEPI, per dirne una, cioè uno strumento che consente allo Stato di prendere la società con delle modalità che non ci piacciono, ma che comunque insomma qualche cosa vuol dire. Si è evitato all'ultimo secondo sull'IMU agricola di non sapere cosa fare lunedì, visto che lunedì bisognava pagarla l'IMU agricola, e all'ultimo secondo lo Stato cambia idea, più che raddoppia il numero di comuni che sono esentati e ci concede 10 giorni in più per pagarla. Ma capite che qui non si riesce mai a capire che cosa bisogna fare. E poi altra novità nel decreto approvato, quello che tocca le banche popolari, per le start-up, positivo occuparsi di start-up, ma perché occuparsene facendo un favore ad alcuni e non ad altri? E perché consentire un regime iperagevolato fiscale, cioè il fatto che non si è soggetti ai cambiamenti di legge fiscali solo se si investe non meno di 500 milioni di euro, cioè pochi amici degli amici? Ci occuperemo di tutto questo, ma telefonate. Intanto, singolarmente, i compari vi dicono che cosa gli ha fatti incazzare. Sai, a me ha fatto incazzare un pochino quella onda di, non so come definirla, ma per me è insider trading, cioè le popolari italiane all'inizio della settimana, prima del decreto che ha imposto, poi vedremo se verrà convertito, la migrazione della governance delle popolari a SPA entro 18 mesi. Ecco, prima di quel decreto le popolari sono rimbalzate, chi del 20, chi del 30, chi del 65%, non voglio fare nomi, ma stiamo parlando di una nota una casa, banca, sì. Diciamo nel centro una Italia, d'oro, antica, una banca etrusca, diciamo. La popolare dell'Etruria. Ora, siccome in questo paese ormai il prezzo delle azioni lo fanno i decreti legge, anzi coloro che sono informati ex ante sui decreti legge, lo fanno le decisioni della BCE, e non lo fa più il mercato, non lo fanno più i fondamentali del mercato. Io mi ritrovo in un capitalismo completamente esogeno, eterodiretto, capisci che mi fa incavolare da matti, perché vuol dire che lavori una vita per stare sui numeri e sui risultati industriali, e in realtà bastano amici degli amici che sanno 24 ore prima cosa si scrive su un decreto e guadagnano quanto tu non riesci a guadagnare per anni. Scusami, sono molto incazzato. Hai fatto benissimo. Vedremo naturalmente l'indagine della Consob. No, e poi ci saranno, immagino, grandi gestori di fondi che diranno: grazie alle nostre valutazioni, ai nostri modelli, siamo riusciti a individuare l'opportunità di investimento sulle banche popolari. Va bene. Tu invece, Mario? No, io non sono incazzato questa settimana. Seminario non è incazzato. No, è che diciamo, essendomi incazzato in altri contesti, diciamo che ho finito di incazzarmi. Relativamente meno incazzato. Sì, esatto. No, l'unica cosa che mi inquieta, ma la svilupperemo più tardi, è questo discorso di questa potenziale JP di cui abbiamo già accennato. Mi sembra veramente anche poi il tipo di comunicazione da parte governativa. Cioè si parte dando delle indicazioni molto rassicuranti, certo. No, ma non sarà così, poi pochi secondi dopo si dice però, e c'è praticamente la frasetta che va a scombinare tutto l'impianto teorico della bella costruzione barocca, dire però non sarà così, ma se capita sarà pure così. Quindi continua questa colluttazione del governo Renzi con la logica, sì, con la realtà, e con uno stile di comunicazione che, al di là diciamo di statue vagamente pornografiche ritratte dal basso in alto, continua a creare problemi, diciamo, di certezza e di quadro di riferimento. Allora io vi dirò che tra le cose che mi hanno veramente colpito durante la settimana ce n'è una che ha a che fare con le tantissime chiacchiere che erano volate all'indomani del primo dell'anno a Roma, quindi la vicenda dei vigili urbani, i 767 che mancavano dal lavoro, e apprendere che dopo le parole del Presidente del Consiglio e del Sindaco Marino finisce con numero 6 su 767 deferiti alla Commissione disciplinare per dubbia malattia, mi pare una perfetta fotografia delle tante ciance polverose che la politica dice svolte e svolte, e del fatto che poi è tutto circolare, si torna dove eravamo prima, più sfiduciati di prima, con meno possibilità di prima di cambiare le cose. Io spero che non finisca così, però è una, devo dire, perfetta fotografia da questo punto di vista di come stanno le cose, e mi dispiace molto perché sono convinto che invece regole diverse servono proprio a tutelare l'onore, la professionalità, la dedizione di chi c'è anche nel pubblico impiego, mentre così è su tutto il pubblico impiego che cadrà ancora una volta discredito della sfiducia di noi tutti, e così l'Italia non si cambia. Quindi non so di chi sia la colpa in generale, però 6 su 767 è ridicolo. A Milano, nella vicenda dei vigili urbani, a Milano anche qui vigili urbani e la CGIL non volevano giudizio di merito professionale con la scheda del giudizio di merito. Sindaco Pisapia, chiunque se ne può pensare bene o male, per chi è in ascolto e anche per me, eppure il sindaco Pisapia ha detto no, non mollo sulla scheda individuale di giudizio professionale, quindi ve la beccherete. Allora, viva la differenza, vediamo come finisce anche a Roma e in tutto il pubblico impiego. Però non funziona annunciare le rivoluzioni che finiscono in operetta, che finiscono in restaurazione. L'unica rivoluzione che si fa in Italia è sempre quella del cardinale Ruffo. Non mi piace questa roba qua. Quindi iniziamo questo bel sabato mattina con uno spirito un po' positivo. Appunto. Suona un secondo questa. Trovate la carica! Oh, è questo. Oggi la compagnia è, diciamo, un po' più ristretta perché Cifarelli ci raggiunge solo alla fine, e Francesca a cui va il nostro saluto, il nostro abbraccio. Siamo torni tra qualche settimana perché ha qualche problemino, ma insomma niente di che, e noi comunque battiamo con il cuore sempre per lei all'unisono. Andiamo al primo punto di cui ci occupiamo adesso per i nostri primi due blocchi, mezz'ora: le pensioni. Richiamo il fatto che la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum che era stato proposto dalla Lega per abbattere, travolgere la riforma delle pensioni Fornero. Sì, la risposta di Salvini è stata molto stellata. Sentiamo subito la risposta di Salvini. Sentiamo, vai. Matteo Salvini, come commenta la decisione della Consulta? Con un vaffanculo che si sente in tutta Italia, perché è veramente una decisione vigliacca, vergognosa. Questi ci hanno detto: non contate un cazzo, conta solo Matteo Renzi e il PD in Italia. Non finisce qui. Certo, con oggi cambia molto in Italia. Hanno fatto una vigliaccata perché sapevano che il 90% degli italiani avrebbe cancellato quella legge del cazzo, perché è stata di una legge del cazzo, e quindi ci hanno pensato loro. Più facile, no? Una stanza, no, non si fa. Contate niente. Italiani, contate niente. Allora, parole per così dire nette, chiare, non proprio ispirate a un... Sì, al classicismo petrarchesco. Però, insomma, nette e chiare. Allora, la questione innanzitutto, prima di entrare nel merito della legge Fornero, i numeri, però io dico solo questo, poi ognuno dice i suoi, i numeri, cioè, qui continua a dirci che è tutto in regola e anzi si può smontare la riforma della pensione. Ma come no? Perché è stato troppo. Guardate che... L'ultimo bilancio, l'INPS raccoglie contributi, visto che il nostro sistema continua a pagare le pensioni ma con i contributi di chi lavora, questa è la funzione, è la ripartizione, raccoglie contributi per 212 miliardi e solo grazie a più di 100 miliardi di euro l'anno che vengono dalla fiscalità generale è in grado di erogare le prestazioni, altrimenti questa è la sua condizione, squilibrio totale del bilancio. Questo è l'unico numero che voglio dire adesso, ma intanto... Com'è che la Lega non pensava che la Costituzione, vietando il referendum su spesa e tasse, vietava anche questo? Primo interrogativo. E a questo punto, visto che il giudizio è così netto, cosa farà la Lega, visto che Salvini ha detto che è solo l'inizio, che continuerà? Allora, vediamo un pochino di chiederlo per la Lega a chi a questo punto deve spiegare in cosa consisterà la strategia della Lega dopo il no della Corte Costituzionale. Io credo di poter dire semplicemente che bisognerebbe cambiare la Costituzione e consentire il referendum anche in materia fiscale, però vedo che nel testo di esame della riforma della Costituzione all'esame del Parlamento questa roba non c'è. Voi due per esempio sareste favorevoli a votare sui referendum fiscali? Beh, però fammi dire, le pensioni non sono fisco, sono una cosa un po' diversa, quindi qui vorrei fare una distinzione importante. Poi oggi le paghiamo col fisco e secondo me e questa è patologia, ma la verità è che le pensioni sono un patto col futuro, sono fondamentalmente un modello di risparmio, quindi è discutibile. Secondo me la Lega non ha tutti i torti a porre il problema, e anch'io personalmente, figurati, no, sono da questo punto di vista favorevole alla più ampia base democratica. Però c'è da dire una cosa, la Lega non è stata precisissima, e in questo suo tentativo, che a me non dispiace, di affrancarsi dal nordismo, affrancarsi da un certo velo razzistico che ha avuto in questi 20 anni e diventare un partito popolare, nazionale, non mi dispiace, ok? Perché secondo me ha bisogno questo paese di un'istanza nuova, però ecco, deve essere molto più precisa nelle sue istanze economiche, che sono ancora vaghe. Quindi io personalmente dico è l'inizio di una conversazione che merita di essere fatta, perché almeno hanno avuto la volontà di porre un accento su una cosa che è insostenibile, il sistema pensionistico italiano. Mario, non so cosa dice Mario. Insomma, a parte la Lega, quello che diventerà, credo che se mettiamo a referendum tematiche, diciamo, di bilancio, quindi di bilancio a 360 gradi, non solo entrate, infatti, ma anche spese. Esatto. Non lo so, qui non siamo in un cantone svizzero, no? Dove capita che si aumentino le tasse. Qua ci sarebbe subito il referendum per aumentare l'aliquota massima, ci sarebbero mercanteggiamenti. Però non vorrei fare dell'autorazzismo, che vedo che c'è questa parola che comincia a ricorrere in questo paese, che quando si descrive la situazione per qual è, in Italia si fa dell'autorazzismo. Comunque auguri alla Lega e anche a tutti e noi, diciamo. No, sentiamo, abbiamo aperto qui come ospite Massimiliano Fedrega, che è deputato e responsabile welfare della Lega Nord. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Allora, voi non ve lo aspettavate davvero, stante il divieto di referendum tributari, che la Corte dicesse no? E a questo punto cosa fate? No, non ce l'aspettavamo perché, come è stato detto, e lo ribadisco, materie previdenziale non è materia di bilancio. Ma lo dice, guarda, la stessa Corte, anche nella sentenza 2 del 94, quella che ha bocciato il referendum sulla riforma Amato, dove specifica e fa dei passaggi fondamentali nel quale non esclude assolutamente materia previdenziale da possibilità di referendum. Tant'è vero che un'altra sentenza, mi scusi se vado, però ovviamente ho studiato visto la preparazione. No, bravo Massimiliano, facci vedere che hai studiato. Perfino la sentenza numero 35 dell'85 diceva chiaramente che non tutto quello che comporta spesa o comporta uscite può essere assoggettato all'articolo 75 e quindi collegato alla legge di bilancio, perché sì, altrimenti, lo dice la sua corte, sarebbe un'interpretazione troppo estensiva dell'articolo 75. Però fammi dire una cosa liberale, Massimiliano, ma perché lo Stato deve avere il monopolio sulle pensioni? Lo Stato può fare le leggi, ma siccome le pensioni sono un accantonamento per il futuro, lo Stato non deve entrare nel suo bilancio. A me, liberale, che le mie pensioni entri nel bilancio dello Stato non è mai stato bene. Quindi, in questo senso, come dire, tifo per il vostro argomento, anche se ci dividono mari di cultura, però per me, a me state simpatici questa cosa. Articola però che cosa volevate ottenere, Massimiliano. No, ma guarda, io sono pienamente d'accordo con te, ma non solo, tu tieni in considerazione che nella riforma Fornero è passato un po' poco sotto l'attenzione dei fari dell'opinione pubblica, ma in quella stessa riforma è stata accorpata INPDAP ad INPS. Sì. Cosa significa? Che il buco INPDAP di 9 miliardi di euro è stato portato dentro all'INPS, guarda caso, e quel buco da cosa è dovuto? Al pubblico che non paga la sua quota di contributi per i propri dipendenti. Quindi il forte rischio qual è? È che sia stata una grande fregatura per i lavoratori, i dipendenti dei privati e anche del pubblico, perché loro poveretti non hanno nessuna colpa, perché nella sostanza la mia forte preoccupazione è che questa sentenza, se sancirà, se vedremo le motivazioni, una cosa del genere, sarà la pietra tombale sul fatto che si può utilizzare le pensioni, i risparmi messi via dai lavoratori per il proprio futuro quando non lavoreranno più, per andare a coprire dei buchi che sono colpa dello Stato che non paga per i propri dipendenti. Sì, però è gravissimo, però di fatto l'INPS funziona così coi fondi anche tra privati, cioè, che è altrettanto ingiusto, voglio dire, perché se andiamo a vedere chi oggi contribuisce di più in proporzione all'equilibrio di bilancio, si fa ripeto, più di 100 miliardi. Compensa un po' il disequilibrio, per essere corretti. Allora, noi vediamo che gli autonomi, partite IVA, eccetera, eccetera, in cambio di quello che ritirano, danno una in proporzione che cosa? Ciò che serve a coprire il deficit di fondi come quello ex post telegrafonici, dirigenti di imprese private, non solo pubblici, che sono in perdita strutturale. Bestiale. Su questo hai ragione, però questo perché? Perché era sancito dalla legge quanti contributi dovevano versare, che magari erano troppo pochi, discutiamone. Il problema del pubblico è che invece non li ha versati. Ah no, certo. Non c'è dubbio, è la stessa ragione per cui il TFR, se il dipendente pubblico chiede davvero, il datore di lavoro dice no, un momento, allora lo devo versare per darti, no, esattamente, per averlo in busta. Ma a questo punto cosa fate? A questo punto noi vogliamo tirare sul ghiaccio tutti i membri della maggioranza che in questi giorni, tra cui anche il ministro Paoletti, che hanno dichiarato tranquillamente, no, è vero, la riforma Fornero bisogna modificarla, così non funziona. Io ricordo, oltre alla parte di bilancio, che con la riforma Fornero a regime, a 70 anni troveremo i muratori che devono andare sul tetto. Adesso va bene tutto, però anche un po' di lucidità nel conoscere la scena. Ma allora, vuol dire che Poletti, siccome adesso il PD, Damiano, lo sappiamo, no, la CGIL, Damiano e così, vogliono tornare all'età pensionabile pre-riforma, cioè vogliono tornare ad andare in pensione a 61, 62 anni e così via. E voi sarete a favore, dopo averli tanto criticati, appunto. Voi voterete tutti insieme, Federica, voi, la CGIL, Damiano, Poletti, Renzi, ma che bella qua, compagnia, e ci regalerete un altro po' di deficit. Non credo. Lo dice Poletti. Renzi ha questo on time, ha detto che la riforma Fornero è perfetta, va benissimo, bisogna toccarla. Ho capito, però temo che prima del voto del Quirinale, siccome c'è un piccolo problemino aperto tra poco a sinistra nel PD, il segnale è stato: ragazzi, smontiamo la Fornero. E voi voterete con loro? Ma detto questo, chiunque sia, anche se... No, mi devi rispondere, voterete con loro sì o no? Certo, sì, no, ma... voterete con loro! Io voto con chiunque voglia distruggere la Fornero, che sia il demonio, che sia un angelo. Distruggere la Fornero. Su questo sai che qua qui il ceppo qua degli ordoliberali qua ti mangia vivo, Massimiliano. E della sostenibilità economica. No, ma aspetta un secondo. Se si facesse come qualcuno qui ha detto, cioè, se per ipotesi stabiliamo il principio che chiunque può, dopo una certa età minima, vuole andare in pensione, Mario, seguimi. Sì. E a quel punto gli diciamo: ti ricalcoliamo contributivamente tutto a tutti, quella sarebbe una cosa interessante. Il problema è se crediamo di far tornare a pensionare tutta l'età libera senza toccargli quello che prende. Questo è il punto fondamentale, o no? Nella stessa riforma Fornero, l'emendamento che prevedeva, per esempio, per ammorbidirla, di ricalcolare col metodo Maroni, con la cosiddetta opzione donna, il calcolo contributivo e il calcolo sul col metodo contributivo è stata bocciata nella stessa tornello dalla stessa maggioranza del tempo. Cioè non è che stiamo parlando di qualcosa che non è stato mai discusso, è stata bocciata e non è stato voluto introdurre la Fornero, perché uno ipotesi al tempo era anche quello di introdurre il ricalcolo col metodo contributivo. Oltretutto ricordo che ormai i retributivi puri che vanno in pensione non esistono quasi più, o sono misti o sono totalmente contributivi, quindi bisogna anche guardare Ma lei va bene, diciamo, l'opzione donna, lei sa che implica, diciamo, il ricalcolo col contributivo puro implica una perdita intorno al 30% rispetto all'assegno teorico ex ante. Se la estendiamo perfetto. Quindi se estendiamo l'opzione donna, la facciamo diventare opzione uomo, opzione essere umano, a voi sta bene, diciamo, di poter mandare in pensione prima dell'età stabilita dalla Fornero, ma con decurtazioni che possono toccare il 30%, perché questo è un problema di copertura, diciamo, no? Perché i soldi non si stampano, contrariamente a quanto credono in molti. Esatto. Capisce? Contrariamente a quanto ha fatto la BCE in questo periodo, che invece ha detto che non è esattamente così. E comunque, guardi, lei appartiene a un partito che stamperebbe amabilmente se ne avesse facoltà. Quindi, diciamo, se lei mi dice possiamo stampare allegramente, mandiamo tutti in pensione a 55 anni, io prendo atto che possiamo concludere qui. Sì, ma non è questione di 55 anni. Noi, per esempio, un'opzione che noi valutiamo seriamente, ed anzi, ripeto, vogliamo tirare sul ghiaccio la maggioranza, è quota 100 invece. Rispetto alle precedenti che c'era quota 96, noi quota 100 può essere un'opzione credibile, che aumenterebbe ovviamente di 4 anni rispetto alla precedente Fornero, ma risolverebbe i drammi creati dalla Fornero. Guardi, l'unica cosa credibile, questo, Massimiliano, è fare 4 conti fatti bene sulla sostenibilità di lungo termine. Le quote 100 o le quote 90 sono esercizio politico per non affrontare la realtà. È una realtà di scienza attuariale, di profili sociodemografici e di sostenibilità. Questi sono i fatti. Perché non impariamo a dire la verità al popolo? Sapete, le pensioni non sono un argomento, sono un trasferimento oggi, oppure un sogno. Io dico solo che se conosco i leghisti, dovrebbero con me tante volte abbiamo fatto convegni insieme. Allora, la fiscalità generale, noi tutti contribuenti contribuivamo all'INPS per il suo bilancio solo nel 2010, pochissimi anni fa, per 84 miliardi di euro l'anno. Questi miliardi sono diventati 112 nell'ultimo bilancio, cioè c'è una progressione del ricorso alla copertura della fiscalità generale, malgrado che poi abbiamo alzato i contributi a tutti quelli che potevamo, che è spaventosa. Allora, in questa condizione io chiedo a chiunque fa proposte di mettere su una lavagna di fronte agli italiani chi paga in più la differenza, perché se paga in più la differenza sono più tasse ancora per tutti, è la stessa cosa a quale siete contrari voi. Voi, no? Nella Lega. Però posso porvi un altro quesito che si collega direttamente. Io mi domando, con questo blocco del ricambio generazionale in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa, nessuno mette in conto quanto stiamo pagando di ammortizzatori sociali, di costi sociali, perché è direttamente correlato. Non si può fare considerare una cosa a parte il blocco del ricambio generazionale. E quindi mandiamo in pensione per assumere i giovani. No, Massimiliano, scusi. Non è questione di mandare, è questione di mandare in pensione a tempi congrui. A 70 anni il muratore non è un tempo congruo. Ma quanti muratori vanno in pensione, che sono tutti, diciamo, dell'Europa dell'Est e tornano a casa loro? Faccia i numeri. Massimiliano, i numeri dei muratori settantenni, perché non ci credo a queste cose generalizzate. A regime la riforma Fornero vale per tutti, tranne che per i lavoratori usuranti. Quindi il muratore a 70 anni. Comunque, agli atti, che perché questo dibattito continuerà come ovvio, però agli atti che la Lega dice c'è una questione sociale, è lo stesso argomento che poi pongono tutti gli obiettori. Noi diciamo, però, dateci i numeri precisi. Parliamo di pensioni, però dobbiamo correggere il nostro inno, perché non è vero che fino alla morte l'Italia pagò. Qui qualcuno paga fino alla pensione, poi viene pagato fino alla morte. No, ci tengo a precisare. Il problema è che c'era qualcuno che pagherà fino alla morte e i soldi non ne vede. E di questo qualcuno, io sinceramente vorrei chiedere notizia all'amico Riccardo Puglisi, che ha fatto una battaglia solitaria, quasi da piccola vedetta lombarda, sul tema delle pensioni. So che, insomma, si è scatenato nei mesi scorsi sui sessantottini che hanno fatto le battaglie in Giovedù, e dopodiché adesso fanno i pensionati di lusso. Ricordiamo che Riccardo Puglisi, che ringraziamo di essere collegato, è ricercatore in economia politica all'Università di Pavia, scrive sul Corriere della Sera, lavoce.info, e insomma, scrive su Twitter. Scrive su Twitter, quello è il maggiore titolo accademico. Allora, grazie dell'invito. Ciao Riccardo, Che cosa ci dici? Raccontaci un secondo, in sintesi, che, intanto, che cosa sono le pensioni? Cioè, dacci una definizione di argomento delle pensioni in questo paese. Beh, è un argomento interessante, diciamo che è un argomento trattato spesso e malvolentieri per me nella maniera più populistica possibile, più demagogica possibile, senza aver presente assolutamente qual è la realtà economica sottostante che voi avete ben descritto, ovvero sia di quello di un cosiddetto sistema a ripartizione. Perché infatti quando la gente mi tormenta, in particolare su Twitter, non al bar fortunatamente per ora, sul tema delle pensioni, io chiedo che cos'è un sistema a ripartizione, e di solito la gente con 2G non mi sa rispondere, ovvero sia che, come sottolineava prima Oscar, si tratta di un sistema in cui non c'è nessun tesoretto, lo ripeto per gli arteriosclerotici, non c'è nessun tesoretto, ovvero sia le pensioni sono pagate per la maggior parte, per 200 miliardi circa, come diceva Oscar, dai contributi dei lavoratori, di quelli che lavorano attualmente, e per un'altra parte dal pagamento da parte dello Stato. E quindi, insomma, in realtà per chi chiede... l'esattezza, correggo un punto su quello che diceva Oscar. In realtà il bilancio delle pensioni è appunto un 300 miliardi, 50 miliardi sono assistenza, le pensioni sono 250, quindi uno potrebbe dire vabbè, 50 vanno per l'assistenza ed è sensato che vengono pagate dalle tasse, cioè come dicono i raffinati, dalla cosiddetta fiscalità generale, ma gli altri 50 sono pensioni. Sono pensioni. Quindi però, non è che sono proprio... Però detto questo, Riccardo, hai sentito che l'argomento della Lega, ma è lo stesso argomento di chi, dopo questo annuncio del governo Poletti, che adesso il PD verrà cambiato, e l'argomento dobbiamo trasferire il problema sociale e dare il lavoro a chi altrimenti con la legge Fornero resta lavoro, diamo la fetta ai più giovani. Come si risponde? Rispondo che si basa su una concezione aberrante, per esempio per qualcuno che sia nel centrodestra, che abbia una qualche idea liberale, ovvero sia l'idea secondo cui la quantità di lavoro è data. Cioè, non solo è data, Riccardo, ma si trasmette di padre in figlio, di generazione in generazione. La Lega dice cose migliori, e faccio fatica a dirlo, però dice cose migliori sull'uscita dall'euro che sulla cosa delle pensioni. Sulla cosa delle pensioni siamo al delirio demagogico, perché non è assolutamente chiaro che cosa sostituisce con la legge Fornero. Se noi siamo ancora in piedi e il governo, come dice nei suoi documenti ufficiali, nota d'aggiornamento al DEF, bla bla bla, fa per 50 pagine e racconta quello che fa o non fa, per il resto delle altre 70 pagine dice alla Commissione Europea e al mondo: guardate come siamo stati bravi che abbiamo fatto la riforma delle pensioni, ovvero siamo riusciti a mettere nel medio lungo termine i nostri conti a posto. Perché? Perché noi, se in assenza di riforme della pensione, e in particolare in assenza della riforma della Fornero, avremmo una gobba di spesa pensionistica sul totale della ricchezza prodotta, cioè del reddito prodotto, scusate, che arriverebbe al 18%, invece viene fatto calare di almeno 2 punti questa gobba grazie alla riforma Fornero, ancora meglio per i 10 anni successivi. Tu sei stato tra i pochissimi a difendere la riforma Fornero, che è stata molto impopolare, venduta malissimo, se posso dire. Io mi vergognerei, questo è un argomento mio, fervore, però dico banalmente che io mi vergogno di essere un economista se non difendessi la legge Fornero. Cioè, un economista che non difende la legge Fornero ha dei problemi gravi di preparazione sottostante, e ripeto, problemi gravi di preparazione sottostante. Io naturalmente ho l'obbligo di dirvi che gli sms che arrivano sono naturalmente tutti favorevoli a smontarla la legge Fornero. Prego, perché non ho mai guardato come funziona una legge. Il famoso referendum, non c'è il referendum popolare, referendum su entrate e spese, li abbiamo qua in diretta sugli sms, ragazzi, però bisogna che ci intendiamo, perché se noi dobbiamo batterci, sono stati risolti come problema, batterci per dare i numeri agli argomenti all'opinione pubblica in maniera che poi sarebbe di decidere. Io altrimenti, se facciamo la democrazia platonica con il consiglio dei saggi dall'alto, ma è la realtà che dà i numeri all'opinione pubblica. Guarda, su realtà. Anticeffoni arrivano, esatto, i numeri così, oimè, questo credo che sia vero. Sentiamo un po' di ascoltatori, iniziamo con Nina da Napoli. Nina, prego. Salve, mi sente? Sì, vada. Allora, no, vorrei illustrare un attimo a questo signor economista la mia situazione. Cioè, praticamente io sono 10 anni che sono di ruolo nella scuola, sì, d'accordo? Adesso ho 66 anni, l'ho appena compiuto, mi obbligano ad andare in pensione, anche se io non ho versato i contributi necessari, perché ho lavorato sempre a Napoli, quasi sempre a nero, anche a Milano a nero. E poi quello invece che mi è stato riconosciuto, diciamo, dei contributi versati con i privati, non lo posso riscattare perché mi chiederebbero non so quanti soldi, cioè è una cosa pazzesca. Per cui vado in pensione obbligatoriamente con 50 lire, non lo so, bontà loro, ho una figlia disabile al 100% che prende 250 euro al mese. Io vorrei sapere che cazzo ci dovrebbe fare una persona con 250 euro al mese non potendo lavorare. Cioè, se poi questo economista spiegare uno poi dove deve andare a sbarcare, mi fa una cortesia. Però Nina, la domanda è, lei vorrebbe continuare a lavorare? Esattamente l'opposto di quello che dice altra gente. Cioè Nina, chi vuole smontare la riforma delle pensioni dice che bisogna lei deve andarsene, lasciare prima spazio ai giovani, questo ci sta, e vada in pensione con i quattro soldi che le danno. Questo è il paradosso, capisce? Lo Stato ci vuole imporre quando smettere di lavorare, dandoci quello che ha deciso una banda di politici a Roma, francamente quanto di più illiberale pensabile. Quindi ha ragione a dire voglio poter continuare a lavorare, lasciamo stare quello che è successo poi nella storia contributiva. La verità, e qui chiedo ancora Rick, dobbiamo spiegare alla gente che il lavoro non si trasmette di mano in mano, di padre in figlio e di generazione in generazione, che la quantità di lavoro non è fissa e il concetto di passaggio generazionale non vale mandando a casa le persone forzosamente assumendo i giovani? Allora, c'è un paragone che dovrebbe spaventare tutti gli italiani ed è questo. Il paragone è tra l'Italia, quello che sta succedendo in Italia adesso, che può succedere in Italia adesso, e quello che è successo in Argentina non poco tempo fa, nell'Ottocento. Nell'Ottocento l'Argentina era un paese molto più sviluppato dell'Italia, è finito in stagnazione per decenni. Il rischio che noi affrontiamo e che dobbiamo evitare è quello di rimanere in stagnazione per 10 anni, cioè ammazzando una, due generazioni. L'unico modo in cui un paese cresce, e è la verità degli storici economici, è la verità dei dati andando indietro nel tempo, è che un paese cresce in termini di PIL pro capite, cioè di quanto reddito ha ciascuno, se cresce la produttività del lavoro. Cioè l'idea è che ciò che conta è la crescita, ovvero sia il fatto che si produca di più, si produca in maniera più efficiente. E le persone, come si dice, se in certi settori non sono obsoleti perché trovano la concorrenza di altri paesi che hanno per esempio costi del lavoro più bassi, questo vuol dire che ci si dovrà spostare verso altri settori più produttivi. Comunque, la mia opinione è che questi argomenti è più fisiologico nella storia dell'evoluzione dei sistemi politici che qualcuno nel centrodestra moderato li tiri fuori e si batta perché l'opinione pubblica condivida questa visione, che condivido integralmente, illustrataci da Riccardo Puglisi. Il problema è che nel centrodestra italiano oggi questa gente non c'è. Che lo dica Poletti, la CGIL, eccetera, dal mio punto di vista mi sorprende meno. Adesso lo so che tu no, mi io non sono d'accordo. Invece la sinistra, che deve occuparsi di lavoro, deve capire di cosa sta parlando. Ecco, no? Deve capire, ma la sinistra. E non lo capisci. Nel suo bagaglio un'altra visione. Ma basta sentire Poletti. Io avevo sinceramente notato due cose quest'estate: una, l'apertura di Alfano sull'articolo 18; due, Poletti con la dichiarazione a proposito del fatto di toccare le pensioni più alte, cioè che sono più alte rispetto ai contributi pagati. Ma il trucchetto stava che sottostante c'era questo, ovvero sia che qualsiasi risparmio veniva utilizzato non per abbassare la tassazione, ovvero sia dare finalmente respiro all'economia italiana, farla crescere, ma serviva per pre-pensionare la gente. Pre-pensionare la gente, quello è lo scopo finale della sinistra sindacale. E questa sinistra sindacale sta ammazzando il paese. Eh sì, la destra dà una mano, però, quindi Ricchi, la mia opinione è che qualcuno si dovrà porre il problema di farla una destra di nuovo un po' più liberale. E in tutto questo, i partiti che hanno confermato per anni all'unanimità, non c'era precedente nella storia dei vertici dell'INPS che le commissioni di lavoro di Camera e Senato confermassero all'unanimità, sto parlando di Mastrapasqua, il presidente per anni dell'INPS, quegli stessi partiti adesso dicono di fronte a Tito Boeri per la presidenza dell'INPS che non ha i titoli. Quegli stessi partiti che sono nostalgici di quella bella intesa collusiva tra destra, sinistra e sindacato, che diceva sempre che l'INPS non aveva un problema. Infatti, l'ha detto la Polverini, una che di titoli ne ha moltissimi, notoriamente. Che si vergognassero. No, qui invece siamo una banda di tifosi di Tito, tutti, anzi, malgrado che sono sconvinto che non votiamo come lui alle elezioni, ma non vuol dire niente, è una cosa di titoli e di serietà. Ecco, questo è il punto. Vedere la Polverini che dice Tito Boeri, ma che è un manager, ma lasciamo perdere. Però ragazzi, noi dobbiamo partire da come sono i numeri dell'Italia. Ecco, i numeri dell'Italia, che dicano tutti coloro che vi dicono la ripresa è già iniziata, anzi no, inizierà tra poco, state sicuri, la ripresa è dietro l'angolo, no, dietro l'altro angolo, no, destra, sinistra, no, è sopra, ma è sotto, ma c'è, quella ripresa è già cominciata, beh, ve lo dicono da quanto tempo, gli 80 euro, eccetera, eccetera. Allora, conto su come mai in realtà continuano a essere corretti, sì, i numeri della tesorerità, ma verso il basso. Mario, sì, spiegaci come, perché questi numeri, chi li corregge, ce l'ha contro l'Italia, contro Renzi, perché? Ma allora, premesso che questi sono modelli econometrici che spesso sono scritti, diciamo, sulla sabbia, sull'acqua, eccetera, che negli ultimi anni, da quando è iniziata la crisi, questi modelli hanno sbagliato sistematicamente per eccesso di ottimismo. Per eccesso di ottimismo, quindi, certo, se dovesse confermarsi la tradizione, esatto, siamo lievemente nei guai. Speriamo che in realtà si inverta la tendenza. A me ha colpito questa revisione, diciamo, delle prospettive nel World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, che vede, vabbè, gli Stati Uniti sempre a guidare il plotone, ma con una crescita lievemente ridimensionata, e poi revisioni al ribasso, diciamo, per tutti, compresa l'eurozona. Chi fa distintamente peggio in eurozona è l'Italia. L'Italia è accreditata nel 2015 dal Fondo Monetario Internazionale di un più 0,4% di PIL, che è abbastanza in linea con quello che stanno facendo, diciamo, a livello previsivo le maggiori istituzioni internazionali, ma anche le nostre, diciamo, anche la Banca d'Italia. Dove c'è maggiore divergenza è sul 2016, perché ad esempio la Banca d'Italia pochi giorni fa ha dato più 1,2 di stima di crescita e il Fondo Monetario Internazionale dà più 0,8. Ora, la mia domanda, che è una domanda aperta, non è retorica, nel senso che io non ho la risposta, è: come mai con una svalutazione così rilevante dell'euro, che era già in corso quando sono stati fatti girare questi modelli, come mai con un prezzo del greggio dimezzato l'Italia continua ad avere un gravissimo affanno, che si legge anche nei dati di ordini e fatturato industriale di novembre pubblicati dall'Istat questa settimana che si è appena conclusa? Questo va indagato. La mia inferenza, la mia idea è che l'Italia ha un settore domestico che sta progressivamente morendo, che si sta progressivamente desertificando. Quindi è inutile che noi andiamo avanti a menarla su con il dollaro, l'export, eccetera. A me fa molto piacere per il dollaro, l'export, la nostra eccellenza produttiva, manifatturiera, creativa, industriale, eccetera, però la base domestica di questo paese temo che abbia un affanno molto grave. È così, anche perché, scusa se posso dire, un pezzo del nostro export è negoziato in dollari, ma sarà il 10-15%, sì, un gran 10%, pezzo del nostro import, sì, sì, sì, sì, sì, invece è negoziato in dollari. È vero che è energia e quindi è vero che si è deprezzata, però non è che tutto questo cambiamento del rapporto euro-dollaro possa sconvolgere, se non le imprese che effettivamente, ma sono appunto 10-15% del PIL di questo paese, possono cambiare. Allora, questo tema che oggi introduciamo solo con una riflessione sui numeri, temo che dovremo riaffrontarlo sistematicamente, cioè quello che ha appena detto Mario. Se oggi aprite Sole 24 Ore, per esempio, troverete un titolo che dice: tassi euro petrolio per l'Italia, l'1% di PIL in più. E questa maniera di trasporre il calcolo degli effetti di una, per così dire, deflazione buona, perché quella sull'energia è così, no? È come quella del prezzo di telefonia mobile abbassati grazie alla concorrenza, su effetti di PIL, di output potenziale che si accresce nel nostro paese, è una maniera in teoria tecnicamente corretta. Nella realtà non sta funzionando. Se nella realtà non sta funzionando, il problema di interrogarsi, ma sotto certi livelli di perdita del reddito e di abbattimento del valore dello stock di patrimonio, questo vale per le famiglie ma vale anche per le imprese, come ho, virgola, le famose famiglie che si arricchiscono, esatto, di Renzi, giusto per ricordare quando la querela della settimana quando scorsa. Ci sono settori come le costruzioni, come l'auto, che hanno perso tra il 45 e il 55% del contributo, del valore aggiunto al PIL del paese. È possibile immaginare che si torna al pre-crisi? No. La risposta che noi iniziamo a darvi, ma come domanda, perché come dice Mario va indagata questa questione, non si può semplicemente dirvi no, non è così, è cosa, è che bisogna pensare di essere entrati in un mondo nuovo, ma questo mondo nuovo, per la componente di domanda interna, cioè di consumi interni, che significa le munizioni per i consumi, il risparmio, i redditi da una parte, e dall'altra però l'organizzazione dei settori di beni e di servizi che danno prodotti e servizi alla domanda interna, bisogna iniziare a ripensarlo, perché non tornerà come era prima, Mario. Ma tu che ne pensi, Carlo Alberto? Io penso che il tema sia proprio quello che stiamo dicendo adesso. anche nel Jobs Act c'è un'illusione di continuità organizzativa, filosofica del mondo del lavoro, che presuppone il ritorno all'età aurea, no? dell'industrialismo organizzato, del lavoro dipendente sotto il capitale che dà, e un certo produttivismo che però non ha più le basi per svilupparsi. Quindi hai perfettamente ragione a dire ci manca la consapevolezza che non è solo un PIL inferiore, ma è un PIL strutturalmente diverso, esatto, nella sua composizione, quello a cui dobbiamo affrontare nei prossimi anni, no? Non basta sommarli gli euro, bisogna capire che origine economica, organizzativa, industriale hanno, e questa verità al paese che non è ancora stata detta, no? Questa, perché guardare il PIL che lentamente si spegne, no? Così in questo declino lentissimo, non ci fa capire che sotto i cambiamenti sono ancora più profondi, sì, e radicali. Soprattutto poi è in atto la grande gara di tutti, capisco, la politica funziona così, di dare colpe lontane ad altri, chi dice l'euro, chi dice il rigore, chi dice l'austerità, quello che volete voi, ma il cambiamento strutturale significa che forse i rimedi sono strutturali, cioè per esempio il sistema dell'educazione e della formazione dà un contributo fortissimo all'altissima cifra di giovani net, cioè quelli che né lavorano né cercano. Guarda i dati di questi giorni qua, abbiamo la classe di insegnanti più vecchia dell'OCSE, vuol dire che noi stiamo trasmettendo modelli culturali ai giovani. Io non sono uno che è contro il principio dell'esperienza, però est modus in rebus, anche qua o io ho il coraggio di dare all'educazione l'importanza che ha in termini di tecnologia, modelli organizzativi, valori, o se no sto trasmettendo valori del passato che ovviamente non sono adeguati al mondo moderno. Quindi, quindi, non... quindi bisogna pensionarli prima. No, bisogna fargli fare un mestiere diverso, no? Più vecchia, questi accorrono, ti citofonano, dicono io ho 51 anni, posso andare. No, però, attenzione, al contrario, attenzione. Vorrei dei mock, sono parla il professore universitario abbiamo i professori universitari più vecchi del mondo, non è accettabile, la ricerca si fa quando sei giovane. Però il problema è che secondo me bisogna proprio cambiare i moduli, voglio dire, se il 44%, un dato che io ogni volta rimango, il 44,7%, cioè 1.400.000 rispetto a 3 milioni di iscritti all'università in Germania, frequenza università tecniche che nel nostro paese sostanzialmente non esistono, perché le lauree brevi non sono le università tecniche tedesche, no. E questa roba ci deve interrogare profondamente, perché lì c'è da cambiare tutto. Se ci sono 1.500.000 apprendisti in Germania, mentre in Italia abbiamo solo 400.000, vuol dire che c'è un sistema da cambiare. Cose di questo genere. Guardate che la nostra maniera di interrogarci sui bassi numeri italiani è strutturale, come vedete, non c'entra la politica, la colpa di chi e di come, ma crediamo che questa sia la maniera per ragionare insieme sul futuro di questo paese. Cosa succede con l'intervento della Banca Centrale? Cosa pensarne? E nel frattempo, perché, come mai c'è un decreto legge che tra tanti altri argomenti, visto che come sempre i decreti legge dovrebbero essere omogenei, tocca anche le 10 maggiori banche popolari, ma le tocca perché quotate? No, le tocca con uno strano criterio discrezionale degli 8 miliardi di attivi. Vabbè, e ci porremo questa questione, ma innanzitutto cominciamo con il grande Marietto, Mario Draghi. Grande Marietto per noi sarebbe in realtà seminario. No, esatto, infatti mi ero preoccupato. Mi sono detto, che vuole? No, ma poi c'è un Marione, vabbè, allora Draghi. Allora, Draghi che qui vorrebbe qualcuno portare in Italia, lasciatelo dove stare, sta dove sta, questa è la mia opinione. Sui giornali c'è una enorme gran cassa, faccio un esempio, cioè prevale un ottimismo forsennato sugli effetti del BCE. Vi leggo solo Repubblica, che fa un titolo oggi: effetto BCE sul tesoro in 2 anni, 20 miliardi di risparmio. Cioè, un quarto totale degli monti interessi. È il primo che parla di tesoretto, vince una bambolina, con lo spillone di ordinanza. Allora, noi tenteremo di dire che siamo un po' più molto più scettici sul fatto che qui funziona, non per criticare Draghi, e qui ci sono variazioni diverse di opinioni, ma intanto presentiamo l'ospite, un ospite diciamo urticante con l'opinione forte sui tema, una vera belva devo dire, uno dei nostri, sì. Esatto, da questo punto di vista, sia sulla BCE che sulle popolari quando ci arrivano, perché è con noi Giulio Sapelli. Buongiorno professore. Buongiorno caro amico. Buongiorno. Allora, innanzitutto sentiamo la sua opinione. Lei oggi ha scritto sul Messaggero un pezzo che ha un titolo, come dire, critico, che non mi sembra adeguato, voglio dire, coerente a tutta sta gran cassa, perché leggo il titolo: compromesso fragile di una Unione Europea senza anima. Questo è il suo commento. Mi sembra evidente, perché diciamo il titolo avrebbe dovuto essere, per usare uno dei vostri termini, ancora più urticante. Esatto. Perché c'è una moneta unica, ci dovrebbe essere una banca centrale unica. Il provvedimento testé preso, naturalmente annunciato dai mercati, perché Mario Draghi si è specializzato in annunci, no? Che poi non fa, e che quindi questo provoca dei turbamenti nelle borse veramente pericolosi. Ma questa questione che questo bazooka avrebbe dovuto cambiare il volto del mondo, beh, verrà sparato questa pistolina d'acqua per il 20% dalla banca centrale e poi l'80% dalle singole banche nazionali. Beh, questo è qualcosa di incredibile, diciamo così. Questa è una sorta di fine dell'unità bancaria, dell'unità monetaria. Allora, cioè, una moneta sola, dovrebbe esserci una banca centrale sola. Invece, dato che la Germania non vuole condividere i rischi, naturalmente Draghi è più che un banchiere centrale, è un diplomatico, diciamo, è un Teheran, ma ti passa immune tutti i governi. E questo è molto bravo, però, in questo però questo dovrebbe fare un altro mestiere, capito? Non dovrebbe fare un altro mestiere, soprattutto non dovrebbe fare tutti questi annunci a borse aperte che stanno sconvolgendo i mercati. Ma questa cosa qui, se l'uniamo con le decisioni della banca svizzera, centrale svizzera, che è stato un segno di sfiducia verso l'euro, è qualcosa che può essere un colpo mortale per l'euro, molto più che le elezioni di Siriza in Grecia. Allora, quindi qui siamo a colpo, può essere un colpo mortale, dice il professor. Sì, allora, sì. Io butto lì un po' di obiezioni da parte mia. Naturalmente contano i punti di partenza, perché i punti di partenza, io non sono della scuola di coloro che chiedono che la moneta deve fare i miracoli, che non riesce a fare la politica economica. Certo, io sono dell'idea che più la moneta è neutra ed è uno strumento di pagamento, meglio è. Però detto tutto questo, col trattato che c'è, con il parere della Corte di Giustizia Europea che ha detto non potete fare la mutualizzazione prevalente, eccetera, eccetera, eccetera, se quella sia la principale obiezione a Draghi non lo so, perché il problema è che io a quel punto direi, Giulio, dobbiamo cambiarli questi trattati, dobbiamo cambiare le regole. Ma questo lo diamo per scontato. Perché altrimenti povero Draghi come fa? Questo ce l'ha spiegato Savona, però in questo caso quindi Draghi dal 2012 compra tempo alla politica che la politica non usa, perché lui con l'OMT, che come dici tu è un annuncio mai entrato in concreto e non sappiamo nemmeno come funzionerebbe. Però almeno lui ha questa funzione positiva. Però se posso spezzare una lancia a favore del professor Sapelli, sì. Io penso che questa volta il bluff. Quello che l'ha rimangiato ha detto the 20% of whatever you risk, sì. Cioè fammela dire semplice, la verità è che non è vero che magari la fine dell'Unione Europea monetaria, magari Sapelli qui sta forse esagerando, però è vero che è un segnale di arretramento su un principio. L'arma minacciata dell'OMT, un po' per la Corte di Giustizia, un po' per la decisione di ieri, oggi è sempre più spuntata. Leggendo gli americani, i cinesi e i giapponesi e sui commenti di ieri e di oggi, emerge con chiarezza che oggi la credibilità di un intervento della BCE a salvare un default di uno Stato sovrano a caso, l'Italia, è molto ridotta, perché se non riusciamo neanche a mutualizzare il 100% delle perdite in profitti Alberto, potete dire quello che volete. La verità è l'OMT, i trattati sono quelli, e fin tanto che non ci sarà un'unione fiscale, esatto, credo che la BCE abbia costruito nei limiti e nei vincoli di legalità che le sono imposti. Tutto il resto, le regole degli filosofia OMT, che è appena richiamato, non è, magari fossero state quello, esatto, che dici tu e dice Sapelli. Purtroppo l'OMT, quando ha assunto le regole dicembre 2012, non era incondizionata. In parole povere, diceva che prima di avere gli aiuti di OMT bisognava passare esattamente per il tragitto seguito dalla Grecia con la Troica. Esattamente, questi sono gli OMT. Quindi rispetto ma nessuno a quella discute roba il lì, condizionamento, quindi discute la volontà lì, anche a fronte di condizioni, ma di farlo. La l'OMT. Volontà non potete chiederla a Mario Draghi, bisogna chiederla ai governi. Non so, i governi europei, se davvero se la sentano. Fino a questo momento sono tutte mi sembra evidentemente che sia di no. Domenica, no? Vediamo se i greci, che però sono solo il 2% del PIL dell'euroarea, dicono buttiamo per aria il tavolo. Ma però sono i politici che devono cambiare queste cose, non il banchiere centrale. Esatto. Però in questo io vorrei dire invece che dobbiamo parlare un pochino di più, oltre che questo aspetto, diciamo così, di contesto che non funziona, degli effetti che sono sopravvalutati. C'è un altro problema fondamentale che apriamo dopo la pausa. In un paese così bancocentrico, ma davvero liberare di capitale con questo po' di acquisti mensili significa fare più impieghi alle famiglie e alle imprese? Figurati, prima domanda, in queste proporzioni di effetti, eccetera, eccetera. E davvero c'è il risparmio sugli interessi pubblici? È come se l'intera cifra andasse a prendere titoli italiani ogni mese nelle proporzioni giuste, quando non è così? Perché commettiamo l'errore di continuare a illudere la gente su questo? Queste sono le domande. I conti della Belva. Eccoci qui tornati a parlare di BCE, di effetti che sono molto molto molto sovrastimati a nostra impressione, di questa svolta positiva, perché avrete sentito, io difendo Mario Draghi, c'è chi lo critica in nome del fatto di volere un'Europa diversa, più federalizzata, con un tesoro unico, con una banca centrale all'americana, quello che volete, ma gli effetti concreti alla gente vengono spiegati come l'ennesima bacchetta magica. Il rischio è che la bacchetta magica non funzioni, secondo me non funzionerà in queste proporzioni, è sicuro. Oltretutto i giornali italiani, per semplificare, nascondono il fatto che noi viviamo una realtà di mercato delle valute e di guerra a far scendere il cambio in atto in tutto il mondo, che avrà comunque delle conseguenze molto pesanti, perché abbiamo i paesi ex emergenti oggi in difficoltà, che sono esposti per trilioni di dollari in debito in dollari, oggi il dollaro torna a essere il king, il re a salire, e tutto questo crea un mucchio di complicazioni, ma veramente un mucchio, perché un mondo nel quale tutti credono di poter svalutare, perché l'euro, questo è l'effetto a breve più efficace, per così dire, della manovra manovra di Draghi. Forse l'unico. Nel frattempo, noi, dopo il voto giapponese, il Giappone torna a fare la stessa cosa. La Cina è molto arrabbiata del fatto che i giapponesi lo facciano, mentre la Cina si era impegnata in un percorso di riapprezzamento pluriennale dello yuan. La Cina ha un mucchio di problemi, mucchio di problemi. Voi direte, ma come, cresce più del 7,4%? Troppe cose non tornano. M1, che è l'aggregato monetario che misura a breve le operazioni di cassa delle imprese, M1 cresce in 4 anni un quarto di quello che cresceva 4 anni fa. Come questo sia coerente con i loro tassi di crescita, punto interrogativo. Però viviamo in un mondo complicato, una cosa è sicura, come si vede dal caso svizzero, dal caso dei due tagli dei tassi di interesse danesi in una settimana, l'abbassamento dei tassi in Canada e così via. È un mondo iper complicato. Che davvero avvenga questo è la domanda che io giro, cioè che ci sia tutta questa ondata di benefici per imprese e famiglie. Professor Sapelli, lei come la pensa? No, io la penso esattamente come lei, in primo luogo perché non credo al valore taumaturgico in sé della moneta. Questo da un punto di vista teorico generale, ma questo sarebbe lungo raccontarlo, poi non è il motivo di questo nostro incontro telefonico, radiofonico, ma soprattutto perché, come diceva anche lei prima, in un sistema bancocentrico, mi ricordo sempre questa definizione di Bernanke, che il quantity easing non è credit easing. Figurarsi se questo non lo era così meccanicamente in America, dove che non è un sistema bancocentrico, gran parte di questi interventi vanno, che se ne dica, a sostegno delle banche, quando poi le banche non lo usino per fare speculazioni sul fatto di titoli che acquistano a bassissimo prezzo e poi dopo rimpinguono i loro bilanci con queste operazioni. Aggiungo che poi la situazione è assai più grave, perché comprare degli asset backed security, cioè degli strumenti finanziari ad alto rischio, che lo faccia la Banca Centrale Europea, mi riempie di terrore, perché può generare una crisi finanziaria da questo punto di vista, che andrebbe studiata, perché sarebbe la prima crisi finanziaria al mondo da alto leverage fatto da una banca centrale. Ma, professore, scusi, non mi è chiaro questo concetto, se può svilupparlo. Perché l'acquisto di ABS da parte di una banca centrale sono dei collaterali sui debiti, e che quindi se parte una bolla di liquidità, com'è probabile con questa immensa massa di capitale circolante che viene immesso, colpisce anche i bilanci e i patrimoni delle banche centrali. e soprattutto della Banca Centrale Europea. Detto questo, che questi scherzano col fuoco, no, lei sa professor Sbelli, che in Italia si pensa di infilare proprio nell'acquisto dei BS una di parte tutto. Del monte sofferenze bancarie, certo. bravissimo, allora capisci che dai acqua al mio mulino se mi ricordi questo. Ma dato che questi sono così deboli teoricamente perché seguono il mainstream, ballano su un vulcano, prima cosa. Seconda cosa, noi sappiamo molto bene che si fanno queste cose, dovrebbero almeno farle per combattere la disoccupazione e per non continuare la distruzione del tessuto produttivo a macchie di leopardo, naturalmente, dell'Europa. Ma questo è possibile solo con una ripresa degli investimenti. Bisogna investire, non è il profitto che fa gli investimenti, è l'investimento che fa il profitto. Ma non possiamo chiedere alla BCE però di fare gli investimenti. No, ma normalissimo, vabbè, ma spostati un attimo, mica si parla solo della BCE, dico soltanto, quindi ritorno al giusto sottolineatura che voi avete fatto prima, è un problema politico. La BCE fa quello che fa delle cose che secondo me sono molto pericolose, ma per adesso servono. Perché? Perché la finanza serve a prendere tempo davanti a una crisi di sovracapacità produttiva e naturalmente di scarsità di domanda. La finanza fa prendere tempo. Adesso questo prendere tempo è diventato un fatto mostruoso che ha al suo centro non più le banche d'affari, ma addirittura le banche centrali. Questa è una roba... basta leggere Minsky, ma basta anche ritornare a leggere Hilferding, quindi ormai sono tutte letture proibite nell'università. Sì, devo dire che comunque la BCE ha comprato tempo, ma non ha comprato denaro. Adesso lo sto provocando. Ha comprato tempo, non ha comprato denaro, ma per uscire dalla crisi bisogna stimolare gli investimenti. Allora bisogna far di tutto perché i privati ritornano ad investire, e qui forse vale la leva fiscale e tutto quello su cui Oscar Giannino insiste da molto tempo. Io penso che bisogna tornare all'economia mista, perché l'unico momento di grande crescita è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando noi avevamo un'economia mista. Naturalmente crea un sacco di problemi, c'è il problema proprio economia e politica, rapporto tra ciclo economico e ciclo politico. Però ci siamo accorti che lei è favorevole all'economia mista, perché quando si è lanciato nella difesa delle popolari, chiamando golpe un'operazione certamente è un golpe. Però ci spieghi bene che qua, per una volta che finalmente liberiamo dalla gabbia della governance una decina di banche, ma non diciamo sciocchezze, non liberiamo da nessuna gabbia della governance. Ci sono, come si insegna Asman e moltissimi tipici dell'allocazione dei diritti di proprietà, ci sono diversi modi di allocare i diritti di proprietà. C'è quello capitalistico, c'è quello che Max Weber chiamava collettivo a piccoli gruppi, che è quello del caso delle banche popolari e di tutte le banche cooperative. Queste sono diffuse in tutto il mondo. Vanno benissimo, naturalmente quando si quotano in borsa i problemi possono ingenerarsi, ma basta che gli investitori si rendano conto che non investono in una banca capitalistica tout court. Investono in una banca che ha come suo primo fine il fatto di reinvestire parte del suo profitto nei territori, e quindi non può permettersi di rendere contendibili il suo capitale, perché è una banca fondata non sul capitale ma sulle persone. Quindi voto per testa, limitazione delle deleghe. Brito, puoi mettere i soldi e non avere limiti? Vai in una banca capitalistica. Ma se vieni in una banca che nel suo statuto ha che i profitti non vanno in primo luogo ai soci, perché c'è il voto per testa e tu puoi avere un euro oppure puoi averne 200 ma conti nello stesso modo, tu non li metti i soldi. Allora, questione è la difesa del modello. E poi voglio dirvi un'altra cosa, questa cosa qua voi sapete benissimo perché viene fatta, viene fatta perché la Banca Centrale Italiana, a differenza di Carli, di Menichella, fino a Beneduce, che sostenevano le banche popolari, addirittura Carli pensava di privatizzare Mediobanca inserendola nel mondo delle popolari. Poi cambiò idea, adesso lascia perdere. Qualcuno gli fece cambiare idea. Però davanti a Beneduce e a Baffi, dovete togliere il cappello. Seconda cosa, la Banca d'Italia è un odio ideologico. Però Banca d'Italia è 20 anni dal 1994 che solleva il tema. Per risolvere, per scippare i capitali, all'ospedale a Montepaschi, cioè in una fornace. Ah, questa è proprio la, allora, la visione sua, è proprio questa. Prendete, voi ve la prendete con la. Quindi Renzi interviene per decreto per. Quindi Renzi interviene per decreto per rimpolpare MPS con i soldi di BPM e così via. Allora, vedremo se lo sviluppo è quello, perché questo in effetti è il motivo per il quale anche noi abbiamo dei dubbi sul fatto che il decreto legge poi ci piace provocare Sapelli perché lui è particolarmente sagace. Il decreto legge non si interviene sulla governance. Detto questo, e soprattutto c'è un criterio un po' strano, perché per me, per esempio, se uno dice per una banca popolare diventa quotata, allora lì si entra nell'ambito della disciplina da dare. Infatti, in finanza, se vuoi essere proprio così popolare, così perché ti quoti? Allora, non ho capito. Okay. Scusami, Però lì il problema è che il criterio indicato, gli 8 miliardi di attivo, gli 8 miliardi di attivo è una riga sulla sabbia per mettere vero le popolari che rientrano nella vigilanza BCE, ma in realtà per farvi rientrare delle tre aggiunte perché fuori dalle quotate, la popolare di Bari, il resto sono Veneto Banca e Vicenza e Bari. E devo dire la verità, quelle due sono nel mirino di Banca Italia, come dice Sapelli, da una parte. Dall'altra, diciamo, non hanno trovato la maniera di convergere in fusioni. Terzo, sono abbastanza opime e ricche, per così dire, e quindi c'è un dubbio su perché abbia usato questo criterio. Ma in realtà, Prof. Sapelli, se per le quotate non abbiamo visto forse in questi anni il fatto che in una banca popolare quotata, in teoria la popolare è quella che dici tu, nella realtà sono diventate, in molte di loro, delle banche in cui, siccome tutti i soci non si conoscono di fronte a una banca che ha come statuto, come fondamento giuridico, quello di dare i soldi ai propri soci, i manager diventano intoccabili a vita per anni. Aspetta un attimo, calmati un attimo. I manager rimangono intoccabili a vita per anni anche nelle banche capitalistiche. Io ho fatto parte di diversi board, soprattutto di una grande banca capitalistica, ti assicuro, come manager trattano i board. Per carità. Lascia perdere, non tirare fuori questa cosa qui dell'intoccabilità dei manager, rispetto, perché basta solo pensare a come si autodanno i compensi invitando dei consulenti che presentano ai board dei calcoli e algoritmi incomprensibili. Quindi non tirarmi fuori questa cosa qui, perché proprio non sta né in cielo né in terra. Il problema vero che c'è dietro tutta questa cosa, e su cui io ho le mie idee, è che, come voleva il grande Luzzatti, che inventò le banche popolari, e che era un liberale, era un liberale, da inizio ai dipendenti era vietato essere soci. Perché Luzzatti diceva si creerà un conflitto. Poi, per esempio, Popolare di Milano, degli illustri avvocati democristiani che sono stati presidenti per 25 anni, hanno modificato gli statuti, hanno messo i dipendenti dentro per fare in modo di essere rieletti. Come fai a difenderlo se la critica in questo modo, hai ragione, io condivido e sottoscrivo la critica. Calma. Innanzitutto io non sono uno che difende tutto, non c'è nulla di perfetto, non è perfetto il mercato, la democrazia, quindi lascia perdere sti toni, come fai a difenderli? Io li difendo perché in tutto il mondo le banche popolari hanno portato sviluppo, crescita e investimenti sul territorio. Il Canada ha la più grande banca cooperativa del mondo, la società di Jardin. Un tempo un professore della Bocconi mi dice: ma io non mi occupo di giardinaggio, perché credeva che fosse una cosa come giardinaggio, perché ormai siamo a questo punto nell'università. Ecco, il Canada, dato che ha una grande volare più grande del mondo, non ha avuto crediti, non ha avuto crisi finanziarie, perché non compravano derivati. Capisci? In Australia c'è un credito cooperativo diffusissimo, anche lì la crisi finanziaria è andata bene. Quindi non prendiamo un caso. No, però non, confondiamo l'intervento sulle popolari quotate con le BCC, sono due cose diverse. Sì, guarda, delle BCC, adesso per dire, sono robe eroiche, ma hanno il 5% del credito. Lo so. Le popolari ce l'hanno il 25%, sono una potenza, sono uno schiaffo in faccia davanti a certi manager capitalistici che si fanno dare milioni di liquidazione o milioni di stipendio. E sono, come diceva Don Sturzo, le banche popolari sono le banche delle mezze maniche. Vabbè, allora, dei commercianti. Ho capito. Lasciatele perdere, per favore. Va bene, okay, ci abbiamo avuto un no su tutta la linea, ma una anche dubbio, preciso, espresso. Cioè che sia un'operazione dietro la quale ci sia la maniera per Renzi di acchiappare i soldi che servono a MPS. Quindi vedremo da questo punto di vista. Intanto grazie a Giulio Sapelli per questa visione urticante sia sulla BCE che sulle popolari. Pierluigi, da Lecco, Pierluigi. Eccoci qua. Dacci la tua opinione. Allora, guardi, lo strumento del quantitative easing serve per dare liquidità al sistema, ma il sistema bancario italiano oggi è già pieno di liquidità. Altro che. Quindi il problema degli impieghi delle banche è che hanno un patrimonio, gli impieghi con Basilea 2 sono legati al patrimonio. Già. Le banche oggi non danno soldi non perché c'è sì il calo della domanda, perché c'è la crisi, perché hanno problemi di patrimonio. Ci sono 181 miliardi di sofferenze lorde. Certo. Gli incagli sono altrettanti, se non di più, anche perché è difficile classificare incaglio leggero, incaglio pesante. Quindi, fin quando non ci sono strumenti legislativi che accelerano il processo di realizzo di queste sofferenze, e ci sono delle problematiche di bilancio diverse. C'è un problema di tappo di capitale. Luigi, io ti ringrazio perché ricordi uno dei problemi strutturali. Io da anni mi ero battuto per un intervento, utilizzare gli attivi, non la liquidità di CDP, per un intervento sistemico di questo tipo, che si poteva fare, tra l'altro andava concordato con il sistema europeo, ma non aveva neanche bisogno dei liquidi dell'SM o dell'FSF europeo per farlo. La politica non ci ha mai sentito, utilizza, come vedremo, la CDP tra poco per fare altro. Comunque, il punto giuridico sulla liquidità degli attivi e quindi in generale sulla flessibilità, sulla velocità con cui sofferenze vengono risolte o comunque impieghi vengono trasformati in reddito, questo è un punto importante. Cioè, se noi mettiamo in sesto il sistema giuridico, il sistema legale, il sistema dei tribunali in questo paese che consente di accorciare i tempi in cui queste cose si risolvono, l'effetto, qualsiasi effetto di liquidità ha tempi di esecuzione, di trasmissione lunghissimi e probabilmente a questo punto dispersi. Però fatemi dire una cosa sulle popolari. A me quello che ha colpito è la motivazione uscita dal Consiglio dei Ministri. Qual è questo? Perché io ho questo brutto vizio di andare a leggere le fonti e i dati. Non farlo più. Infatti devo smetterla. Ecco. Chi fa il fact checking avvelena anche te, digli di smettere. Io ho letto, il governo ha detto per aumentare la disponibilità di credito e ridurre il costo dei servizi bancari. Ora, io che sono notoriamente ottuso, vorrei capire perché la trasformazione delle grandi popolari cooperative in SPA determina un calo del costo del credito, un aumento dei volumi erogati e un calo del costo dei servizi. Io quello che chiedo a questo governo è di non prenderci per il culo. Ma è la neurolingua, no, se tu a dirlo. Esatto, ma esatto, siccome questa cosa è sinceramente reiterata e insistita e sarebbe anche ora di piantarla, se avete qualcosa di inconfessabile da dire, ditelo. Perché a me starebbe anche bene una riforma profonda delle popolari, mi starebbe bene fare sparire la governance duale delle banche di capitale SPA, che sono gli strapuntini per i politici trombati. Però che io mi debba essere e sentirmi così ferocemente preso per il culo dai comunicati di Palazzo Chigi, ne avrei le tasche un po' piene. Tra l'altro, ragazzi, voglio chiedere un'opinione del volo su questi italiani che sono andati, italiani che fanno sinistra, la citarella politica. Sono andati lì perché sono convinti che sia giusta, quella è la strada, quella di Alexis Tsipras e di Siri. A cantare. Non hai capito cosa hanno cantato? Mi sono svegliato, oh bella miau, bella miau, bella miau, miau. Ecco, questa lì così a miagolare sotto la luna di Tsipras. Abbiamo visto questa banda di simpatici ragazzotti di sinistra. Il problema è serio, perché in realtà, visto che la politica chiacchiera ma non prende decisioni sui trattati, il modello di BCE che a molti non piace e così via, e a quel punto tutti criticano Draghi come se potesse lui cambiare queste cose, a sinistra i greci hanno una domanda a cui rispondere. Bene, la diamo la spallata? La spallata la diamo noi da Atene e il resto della sinistra nei paesi più esposti alla crisi ci segue e capisce che questa è la strada oppure no? Ecco, questa è la domanda. Io non so se Siriza ce la farà a fare un governo, a non fare un governo, se davvero Tsipras poi fa quello che dice, se davvero è ipotizzabile sul serio che si abbatte di un 50% quell'80% del debito pubblico greco che è nelle mani pubbliche nell'euroarea. Comprese le nostre, eccetera, dire, eccetera. E se non succede poi che Portogallo e Irlanda chiedono giustamente a questo punto la stessa cosa, no? Lui dice di volere una conferenza europea di abbattimento del debito. Quindi io non lo so se questa sia la prospettiva. Vedremo. Ce lo chiediamo con Emiliano Brancaccio, che insegna economia politica all'Università del Sannio e questi anni ha firmato molti appelli di decine e decine di economisti italiani e internazionali proprio nella prospettiva, in realtà, di ribaltare, cioè di cambiare profondamente queste regole europee, e che coerenza a questo dice quella è la strada a seguire ad Atene. No, Emiliano, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno. buongiorno a voi. No, per la verità l'ultimo documento che abbiamo pubblicato sul Financial Times nel settembre del 2013, diciamo, è un documento nel quale ci limitavamo a fare una previsione, cioè che le attuali politiche economiche europee ci stanno portando alla deflagrazione dell'Eurozona. Non è che, diciamo, pubblicavamo auspici o ci facevamo promotori di evocazioni speranzose, perché non credo che sia più questo il tempo. Il problema per quanto riguarda il caso della Grecia, secondo me, al di là delle opinioni che possiamo, diciamo, nutrire nei confronti del programma di Syriza, il problema è semplicemente stare un po' ai fatti. Cioè, i fatti mi sembra che siano i seguenti. Ammesso che Syriza riesca ad ottenere una maggioranza in grado poi di definire una linea di governo precisa, e questo che non perde i pezzi per strada come tutte le federazioni di sinistra fanno da decenni, esatto, no? Sì, capita questo in genere, sì, effettivamente. Comunque, quindi, per questo dobbiamo mantenere una, diciamo, riflessione nel campo dell'ipotetico. Però ammesso e non concesso, come diceva Toto, ammesso che riesca a ottenere una salda maggioranza, però lì i problemi cominciano soltanto. Esatto. Nel senso che, da un lato, io, nonostante una eventuale netta vittoria di Syriza, non credo che questo possa implicare un mutamento nei rapporti di forza ai tavoli delle trattative europee. No, mi pare di no. E quindi, anche, diciamo, volendo immaginare un avvio di una rinegoziazione del debito, questo, diciamo, poi si tradurrebbe infatti parliamoci chiaro, Emiliano, i più degli osservatori da Bruxelles dicono, guardate che la trattativa riservatamente era già aperta con Samaras, sì, ci sono state già due rinegoziazioni, appunto, per la verità. Il problema è che non cambia l'indirizzo di politica economica, cioè la linea dell'austerity, se si va a quei tavoli delle trattative con gli attuali rapporti di forza, non modifica la linea di austerity della politica economica. Qual è il problema? Il problema è che Syriza, sul piano politico, sa benissimo che il proprio successo deriva dalla crisi precipitosa del PASOK. E io ho il sospetto che, credo non soltanto io, che questo successo che è sopraggiunto così rapidamente possa svanire altrettanto rapidamente nella ipotesi che Syriza seguisse essenzialmente una linea non troppo dissimile da quella che ha caratterizzato e che ha distrutto il PASOK di Papandreou. Quindi tu dici, in realtà, se non ho capito cosa dici, cioè il problema è un nuovo banco di prova del fatto, se la sinistra ha capito, in Grecia, ma non solo quella greca, perché questo mi pare di capire vale un po' per tutti i paesi che stanno nei guai, se la sinistra ha capito che non si può poi dire una cosa alle elezioni, farne un'altra, cioè diventare realisti poi ai tavoli, perché altrimenti poi gli elettori di sinistra a questo punto ti castigano, perché vogliono alla coerenza, ma soprattutto vogliono indicare una strategia radicalmente alternativa rispetto ai trattati, alla modalità con cui c'è il patto di stabilità, eccetera, eccetera. Un po' questa è la faccenda dell'esperimento greco, secondo te? Sì, la velocità, diciamo, con la quale si modifica il consenso in questi anni, che è una velocità che già abbiamo registrato in anni cupi nella storia europea, ma è indicativa di come, diciamo, i processi siano rapidi, appunto gli infingimenti, diciamo, non c'è più tempo di infinzione. Cioè, tu dici la stessa cosa che riguarda Podemos in Spagna, è lo stesso tipo di fenomeno. In Italia, fino a questo momento, Renzi va avanti su tutt'altra storytelling, come direbbe ovviamente Baricco e lui. Però questo lo dico io, magari rapidamente avviene anche in Italia. Perché fino a questo momento in Italia non si vede quello che dici tu, Emiliano? Io credo che si veda, nel senso che, secondo me, voglio dire, il Presidente del Consiglio penso che abbia già una vaga idea del fatto che lo iato, la distanza tra diciamo annunci, proclami e dichiarazioni, in realtà, però, dei fatti, però non c'è niente di paragonabile, voglio dire, all'esplosività della crescita di Syriza nell'ultimo anno e mezzo, ai danni del PASOK. Ma per i dati, nel senso che ovviamente la crisi greca è una crisi che si aggira intorno al 18% di caduta del prodotto interno lordo. Noi abbiamo una precipitazione, ma non di quelle proporzioni. Man mano che la crisi avanza, secondo me uno scarto tra parole e fatti non sarà più sostenibile. Allora, speriamo di non dover arrivare al 18%. Però non c'è un problema se poi Boss, Emiliano, sul rapporto che c'è fra sinistra e debito, storicamente nell'accumularlo, perché diciamo il debito è sempre stata una specie di grande discarica delle immondizie politiche, finiva lì, e adesso nell'elaborarne il lutto, no, delle conseguenze del tema della responsabilità. Non siamo a redderazione nel rapporto fra sinistra e stato patrimoniale della Repubblica? Adesso però, in questa domanda, prima che ti risponda, aspetta, ti fermo un secondo prima di rispondere. Tu dici la sinistra perché noi vogliamo fare i vecchi liberali. Guarda che qui il primo liberale io lo dico faccio. Lo dico a te per farti incazzare, infatti. Qui il primo a introdurre profeticamente, sì, direbbe, il tema del condoniamo i debiti fu Giulio Tremonti. Non ve lo dimenticate, perché quattro anni fa iniziò Giulio Tremonti. Giulio, però, quindi qua non è che la destra la pensi, ma il problema è che qua lo dicono e poi non lo fanno, capisci? Allora il problema è che qui la destra in Italia, se c'è un problema di sinistra e liberale, ma quello della destra liberale italiano, ma giorno che ne parliamo, simbolo la destra liberale, su via. Quanto ridiamo. Senti Emiliano, però devi darci la risposta secca: c'è questo problema a sinistra sui debiti secondo te? Se posso permettere, ecco, di inserirmi in questa amabile conversazione. No, il punto è questo: se noi guardiamo la storia, diciamo, anche contemporanea, la storia del capitalismo mondiale, in realtà non c'è una relazione tra sinistra e debito. I governi si sono succeduti, hanno cambiato colore, il debito è stato generato a destra come a sinistra, ma questo non solo in Italia. Sì, sì, ma è così, faccio così l'esempio di Ronald Reagan, non so se vi ricordate, il debito è così grande che se la può cavare da solo. Era questo un po' quello che diceva Reagan. Io però credo che la questione, poi, al di là dei colori politici, sia proprio una questione, diciamo, operativa. Cioè noi dobbiamo renderci conto del fatto, e qui mi permetto di citare Keynes, il quale si domandava se egli fosse un liberale o un socialista, e la questione è aperta, voglio dire, a questo riguardo, ma Keynes secondo me qualche dritta ce l'ha data. Cioè, in altri termini, se noi attuiamo politiche di austerity, ritorno al caso greco visto che è all'ordine del giorno, che realizzano una caduta della spesa pubblica di 4 punti, un incremento della tassazione di 8 punti, e ci ritroviamo con un boom del debito pubblico di circa 30 punti evidentemente c'è qualcosa che non funziona. A questo logico, io ribadisco, i keynesiani dicevano fate il sequestro di spesa pubblica nel 2012, negli Stati Uniti succederà la recessione. Bene, 500 miliardi di dollari di tagli di spesa pubblica in un solo anno è il boom degli Stati Uniti. No, mi dispiace, su questo Keynes per me avrà sempre torto. E sentiamo subito Flavio da Milano. Flavio, anche perché ti abbiamo tenuto in attesa per troppo tempo, se sei ancora a telefono. Flavio, sì. Eccoci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Un grande apprezzamento per te per e per impegno. Tutta questa compagnia di matti che siamo, sì, qua. Ma dici, Flavio, di cosa vuoi intervenire? Allora, io mi appoggiavo a quello che hai detto tu prima, un po' di tempo fa. Il mondo è complesso, io sono d'accordo. Ce lo siamo resi completamente complesso. Sarebbe più semplice cambiare, cioè per semplificare tutto, bisognerebbe semplicemente cambiare i politici che stanno facendo solamente vecchie politiche, tipo l'introduzione magari dell'aliquota unica al 15%, ma io parto anche da un altro concetto ancora, che è questo: com'è possibile che l'uomo primitivo, quando per vivere doveva solamente lavorare 4 ore e il resto della giornata era libera? Noi oggi che abbiamo una produttività molto molto più grande, non ci bastano a lavorare 8 ore, anzi. Allora Flavio, su questo, a proposito di Keynes, c'è una mitica pagina di Keynes in cui diceva che nell'ambito di meno di una generazione saremmo tornati a lavorare pochissimo, tutti felici e tutti ricchi. Beh, il problema è un pochino più complicato, per così dire, ed è tutto reso anche più complicato dal fatto che ovviamente il governo a volte poi fa degli interventi molto molto molto discutibili. E con noi, per la consueta rubrica finale del non si può fare, Renato Cifarelli. Ciao Renato. Buongiorno ragazzacci. Ragazzacci, allora, oggi giustamente tu hai fatto PIL e quindi avevi di meglio da fare fino a questo momento. Vengo subito. Non ho di meglio da fare, non so neanche se ho fatto PIL. Intanto tentavo di diciamo che sono in giro per lavoro. Tentavo di convincere un cliente, che è la cosa fondamentale su cui va avanti l'economia. Detto questo, allora, negli ultimi interventi del governo, qual è che ti ha colpito sul tema delle start-up? Ma io, sai, sono un po' noioso e dico sempre, bisognerebbe pensano sempre alle nuove aziende, ma se pensassero ogni tanto a mantenere quelle esistenti sarei anche contento. Ma detto questo, questa settimana è uscito il decreto sulle PMI innovative. e c'è la necessità di inquadrarle, quindi io capisco benissimo, non si sapeva quali erano, adesso lo sappiamo, sono quelle che hanno le spese del 3% sul fatturato in spese di consulenza e di ricerca, oppure che hanno un quinto di personale altamente qualificato, non so cosa vuol dire altamente, probabilmente pensavano da Carlo Alberto che è molto alto e quindi questo è lui è altamente qualificato, e poi devono avere dei brevetti che richiedono degli anni, quindi poi evidentemente non stiamo parlando proprio di startup. Devi essere una startup questo... con almeno tanti anni di esperienza brevettuale, no? Sì, è un po' esatto. Come cercasi neolaureato con esperienza, più o meno, no? Questo... Sì, cerchiamo neolaureato con 5 anni di esperienza stage, 300 euro Vai. Più o meno. Questo. E oltre a questo? Queste qua possono fare crowdfunding, quindi... Spiegalo in italiano cosa vuol dire. Immagino che le altre non possono. Crowdfunding è un'esperienza innovativa nata all'estero, naturalmente, dove tu dici che progetto hai e le persone possono metterci un po' di soldini. Quindi tu non hai soldi per partire, ma hai un'idea buona. Vai su una piattaforma di crowdfunding e dici: io ho questa idea, ho bisogno di questa cifra e... chi crede in quel progetto può metterci da 5 euro a 5.000, 50.000. Ma che bella idea, sembra quasi meglio di una banca popolare del territorio. Beh. Sto provocando. Secondo me è decisamente meglio di una banca popolare del territorio, se non altro perché non c'è il direttore, ma ho detto questo. Ma no, BPM che deve i soldi alla Santanchè e poi mi è lasciato per la banca dei poveri, ma su, ma per favore. Io esplodo, perché oggi quando io devo fare solo il conduttore, non dare le opinioni, è più forte di me, poi mi scappa. Per forza, io voglio bene a Sapelli, ma confondere la difesa. Famiglia, cioè. Ma dai, la banca popolare di Milano dava i soldi lì ai progetti da Sant'Anchè, a cui gli altri amici di amici nelle banche non davano i soldi, e lì invece Pozzedigni li dava. E questa sarebbe la difesa della banca per i poveri cooperativi. Domani. Comunque, scusami, Oscar, non deviamo. Tu sai che anche i direttori tengono famiglia. Non c'è dubbio. Bravo. Allora torniamo amici al fatto che famiglia. Oltre al fatto che queste start-up possono tanto start-up non sono, posso fare il crowdfunding. Penso che gli altri non lo possono fare, perché se dicono che questi possono fare crowdfunding, gli altri non lo possono fare. Ci sono dei benefici per chi investe, quindi per chi ci mette dei soldi dal punto di vista delle tasse, però li paga la piccola media impresa, perché qua viene la cosa che mi fa abbastanza sorridere. Queste imprese, per essere definite imprese, piccole medie imprese innovative, devono avere bilancio certificato. Certificato. Ah. Allora, qui andiamo subito al punto. Quant'è la media delle, insomma, tra piccole e medie imprese italiane? Stiamo parlando praticamente del 99% delle imprese italiane. Qui chi è che ha, quanti hanno il bilancio certificato tra le piccole e medie imprese italiane? O sono di un gruppo grande oppure 0,0%. Quindi con questa solita sola qualificazione. Certificare un bilancio è una cosa complessa, richiede un procedimento consulenziale costoso, e richiede sistemi informativi molto precisi. Allora vi abbiamo appena spiegato come l'ennesima misura del governo, annunciata con mandibiacca come la prova che loro sono moderni, avanzati, pensano alla crescita, eccetera, eccetera, è una presa per il culo. Perché c'è una piccola normetta dentro che esclude l'applicabilità al 99,9% delle startup esistenti. No, se no spendi un sacco di soldi. Fai certificare un sacco di soldi. Ecco. È un flusso di reddito alle società di certificazione. È un flusso di reddito alle società di certificazione. Benissimo. È uno spostamento di reddito questo, Oscar. No, il vero grande problema è quello che diceva Carlo Alberto, cioè una piccola impresa startup normalmente di chi è fatta? È fatta di grandi tecnici. Che l'ultimo dei problemi che hanno in mente è quello di fare dei sistemi di gestione. Ma queste norme sono scritte da chi un'impresa non l'ha mai vista! Questo è il punto, urliamolo, io lo urlo apposta. E nel frattempo, nello stesso decreto, rifanno la GEPI per riprendersi le aziende e ridarle al mercato non si sa se dopo 10 anni. Stato ladro! Ci sentiamo sabato prossimo, ciao a tutti! Ciao. Fratelli d'Italia, l'Italia le messe.